Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Seconda puntata. C'era una luna che faceva spavento, tanto pareva giorno chiaro. Guidava alle grotte Montalbano, pigliava certe curve sbandando, ora camminava a 10 orari, ora a 100. A metà strada, fra Montolusa e Vigata, vide a distanza il cartellone pubblicitario del re al quale stava ammucciato il viottolo che portava alla casuzza diroccata che aveva al lato il grande olivo saraceno, l'arbolo che era da quasi un anno che non andava a trovare. Dopo un centinaio di metri si venne a trovare davanti alla cancellata di una villetta appena finita di costruire. La luce della luna consentiva una buona vista, ma quello che vedeva gli era straneo. L'olivo saraceno, ma che hanno fatto? Non arrenisciva a raccapezzarsi. Non riconosceva niente del paesaggio al quale era abituato. Mio Dio, che sfacelo! Grandissime cornute, figlie di grandissima bottanazzi. Non c'era più la casuzza rustica, non c'era più l'olivo saraceno. Guarda qua, guarda. Così. Quando arrivò nella parte di Darre la villetta, tagliò meglio e fece un urlo. Con un balzo degno di Tarzan, principiò a spaccare i vetri delle finestre del piano terreno che erano due per facciata. La villetta era finita e chiaramente non era abitata. I vetri alle finestre avevano ancora protezione le strisce di carta adesiva incrociate. Lasciata la macchina nel parcheggio della questura, Montalbano giasì da una porta laterale e aspettò che arrivasse l'ascensore. Improvvisamente si ricordò che Mimì doveva aver contato al questore che gli avevano dato una para de punte sulla fronte. L'unica era tornare a Vigata e farsi fare una fasciatura da un farmacista amico. No, no, Paola. Tornò in questura con una larga fascia di garza che gli ferriava la testa. Pareva un reduce del Vietnam. È permesso? Venga, si accomodi. Grazie. Montalbano, sono stato costretto a mettere il naso su alcuni incartamenti, mio malgrado, che riguardano una sua maleodorante indagine di qualche anno fa, quando io ancora non ero questore qui a Montelusa. Si tratta dell'inchiesta su una prostituta tunisina, poi trovata morta, che aveva un figlio di nome François. Il nome del picciriddo lo colpì come una stilettata in mezzo al cuore. Dio mio, François! Da quanto tempo non lo vedeva? Cercò di farsi tornare a mente tutti i particolari di quella lontana indagine. Pare che lei, in un primo tempo, avesse avuto l'intenzione di sposarsi e di adottare questo bambino. È vero o no? Sì, è vero. In seguito, lei avrebbe cambiato opinione sull'adozione del bambino. Quindi François è stato successivamente affidato a una sorella del suo vice, il dottor Domenico Augello. È così? È così. Tutto in famiglia, eh? Mi scusi, signor questore, io vedo che lei già si è fatto un'idea precisa su una questione che io sinceramente nemmeno mi ricordavo più tanto bene. Ad ogni modo, io la prego di riflettere bene sulle parole che mi sta per dire. Lei non si permetta di minacciarmi. Avanti, Montalbano. Mi dica, che fine ha fatto il libretto? E quale libretto? Non faccia lo gnorri, Montalbano. Ma quale gnorri? Di quale minchia di libretto mi sta parlando, scusi? Montalbano, abbiamo il carbone bagnato, eh? Ma prima di parlare del libretto, parliamo del bambino, del figlio della prostituta. Lei, senza avvertire nessuno, si è portato a casa quest'orfano. È sequestro di minore, Montalbano. C'è un tribunale, lo sa o no? Ci sono i giudici per i minori, appositi, lo sa o no? Lei doveva seguire la legge, non eluderla. Non siamo nel Far West. E non solo. Non contento di questa bella prodezza, poi lei regala il bambino alla sorella del suo vice, quasi fosse un oggetto qualsiasi. Cose da gente senza cuore. Cose da codice penale. Ma di questa parte della storia riparleremo. C'è di peggio. La prostituta possedeva un libretto al portatore con un deposito di 300 milioni. Questo libretto a un certo momento è passato nelle sue mani e poi è sparito. Che fine ha fatto? Ha spartito il denaro col suo amico e complice Domenico Augello? Montalbano, lento lento, posò le mani sulla scrivania. Lento lento, calò il busto in avanti. Ti dico una cosa da uomo a uomo. Lascia perdere il bambino. François è stato regolarmente adottato dalla sorella di Domenico Augello e suo marito. Lascialo fuori. Per le tue vendette, per le tue minchiate ci sono qua io. Che basto e avanzo. D'accordo? D'accordo? D'accordo. Ed il libretto? Mi scusi, signor Questore, ma lei questa informazione dove le prende? Mi hanno scritto. Ah, una lettera anonima. Diciamo che non è firmata. No, diciamo una lettera anonima. E lei non si vergogna di dare seguito a una lettera anonima? Montalbano, Montalbano. Montalbano, torni subito qui! La cosa bella di tutta la faccenda, pensò Montalbano mentre con le mani contratte sul volante si dirigeva verso Marinella, era che non ce l'aveva con chi aveva scritto la lettera anonima. Sicuramente una vendetta di Lohengrin Pera, l'unico in grado di ricostruire la storia di François e di sua madre. E non ce l'aveva manco con il questore. La raggia la provava contro se stesso. Come aveva fatto a scordarsi completamente del libretto coi 300 milioni? L'aveva consegnato a un notaro amico. Di questo si ricordava perfettamente, perché amministrasse quei soldi e li versasse a François appena diventato maggiorenne. Ricordava, ma questo confusamente invece, che una decina di giorni appresso la visita al notaro, questi gli aveva spedito una ricevuta, ma non sapeva più dove l'aveva infilata. Tempo un'orata scarsa trasformò la sua casa in un appartamento visitato da ladri abili e coscienziosi. Tutti i cascioni della scrivania tirati completamente fuori e le carte che c'erano d'incia gettate a terra. Magari a terra ci stavano i libri aperti a mezzo. Nella camera da letto i due comodini erano spalancati, lo stesso l'armoire e il settimanile con la roba levata e messa sul letto, sulle segge. Proprio quando aveva abbandonato la speranza, d'incia una scatola nel cassetto più basso del settimanile, insieme a una foto della madre scomparsa, insieme a una foto del padre, trovò la busta speditagli dal notaro. La aprì, tirò fuori il documento, lo lesse e lo rilesse. S'assettò alla scrivania e scrisse. Dato che lei è incline a prestare orecchio alle lettere anonime, anch'io di buon grado non firmerò questa mia. Al contempo le invio copia della ricevuta del notaio Giulio Carlentini, al quale il dottor Salvo Montalbano, a suo tempo, affidò la somma di cui lei mi ha chiesto conto. L'originale naturalmente è in possesso dello stesso Montalbano e può essere esibita a gentile richiesta. Firmato, un amico. Andò alla posta, fece una raccomandata con ricevuta del ritorno e si paralizzò alla vista di una femmina che stava in quel momento passando per la strada. Era la signorina Maria Stella Cosentino. La vista di Maria Stella Cosentino gli aveva fatto venire un pensiero agghiacciante. Il notaro, per disgrazia, non è che aveva investito i soldi di François nell'impresa del ragionier Gargano? Prego. Buonasera, signor notaio. È permesso? Prego, prego. Buonasera. Buonasera. Si ricorda di me? Certo, commissario. Sta comodo. Grazie, molto gentile. Ecco, signor notaio, io avrei bisogno di un'informazione. Lei si ricorda quando io qualche anno fa le portai un libretto postale con sopra circa 300 milioni, no? Certo che me lo ricordo. Sono i soldi del piccirino tunisino. Esattamente, esattamente. C'era sempre lei, vero? Sì, no, mi scusi se glielo chiedo, ma mi era venuto come il sospetto che lei li potesse avere investiti in un certo modo. Che cosa sta dicendo, scusi? Ma che c'è stata questa sgradevole vicenda del ragionier Gargano, non so se... E lei pensa che io sono così coglione da fidarmi di un imbroglione come quello? I soldi li ho messi in banca, come le avevo detto. Certo, in banca, giusto. No, mi scusi, non so come mi è venuto in mente. Facciamo finta di niente, va, signor notaio. Grazie mille, buonasera. Il notaro, al solo sentire il nome di Gargano, si era messo a ridere. Con grande sollievo del commissario, i soldi di François erano davvero al sicuro. Il commissario Montalbano, l'odore della notte. Con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante. E con Cesare Bocci, Giacinto Ferro, Peppino Mazzotta, Gigio Morra, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio, posta elettronica, sceneggiato, chiocciolarai.it.